Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Un saluto affettuoso a tutti gli ascoltatori da parte di Gesi e di Antonio. Buonasera Antonio. Saluti Gesi. Come va? No, non male, grazie. Non male. Sì. Allora. Diamo un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. E ricordiamo il nostro indirizzo internet che è il bluradioveneto.it. E ricordiamo anche che è possibile l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione in podcast, senza dimenticare un saluto al nostro regista. Ciao signor regista, io voglio bene, sai, al mio regista. Oh, sì. Doveroso. Sì, potrei raccontare anche un episodio, ma non... Ti astieni, diciamo, ecco. Sì. Vabbè. Stasera Antonio, cosa abbiamo? Stasera abbiamo un ospite virtuale. Che la nostra è un'amica, conoscenza, sì. Esatto. Che è la signora Elisa Sala Borin. Elisa Sala è poetessa, scrittrice, perché scrive romanzi, scrive racconti, e qui stasera leggeremo uno dei suoi racconti. Ci ascoltiamo la prima canzone in programma e poi avremo Elisa al telefono. Allora, la prima canzone in programma, caro Antonio, è Sì, la vita è tutto un quiz. Evocativo proprio. Che la canta Renzo Arbore con il suo complesso. C'è una luce blu e in ogni casa che brilla una TV, e tutti intorno seduti a guardare davanti a questo nuovo focolare. Il padre e il figlio dice: senti un po', solo un consiglio è quello che ti do. Tu nella vita comandi fino a quando hai stretto in mano il tuo telecomando. Eccoci di nuovo in studio e abbiamo al telefono, come annunciato in precedenza, la signora Elisa Sala Borin. Ciao Elisa. Elisa. Buongiorno a tutti. Saluti. Come va? Bene, grazie. Abbastanza bene, diciamo. Bene. Ho sentito appena adesso una canzone che mi ha tirato su di morale. Ah sì? Sì. Di quando? Forse era degli anni 90, forse. Ma degli anni 80. 80? Sì, penso l'87, sì, se non ricordo male. Sì, forse era la sigla della televisione. Indietro tutta. Indietro tutta. Sì. Allora Elisa, questa sera sì. Abbiamo deciso appunto di chiamarti telefonicamente perché leggeremo un tuo racconto. Come ho detto prima, tu sei poetessa, scrittrice, perché scrivi racconti, romanzi, scrivi un po' poesie, insomma scrivi un po' di tutto. E appunto stasera leggerò Il segreto del lago, ah. William. Magari prima di incominciare, se vuoi così dire due parole su questo racconto, come mai ti è venuto così in mente di scriverlo? Io ho una fantasia, vivo di fantasia ovviamente, ma molte volte si è portati a, non so, a ricordo dei film degli anni 30, gli ambienti o anche gli alberghi di quel tempo, che non ci sono, ci sono ancora, ma non sono con quell'aria, diciamo, del dopo libertà, per capirci, mm-hmm. quel mondo che non esiste più. E questo in fondo è un racconto di quel tempo. Io l'ho collocato in un tempo di sogno, si può dire così. Eh beh sì, è un po' fantasioso, logicamente. Sì, sì, sì. Allora Elisa, tu resti qui in ascolto, sì? E intanto incomincio a leggere il racconto. Va bene. Allora, Il segreto del lago, William. Ciao, ciao, aspettatemi. Ancora un bacetto al papà. Giulio raggiunse di corsa la figlia che si stava sporgendo dal finestrino del SUV in partenza. Baciò la sposa affettuosamente e allungò uno scappellotto bonario allo sposo. Rimasto solo sull'ampio piazzale, li seguì con lo sguardo finché fu possibile. Dopo aver salutato gli ultimi invitati, si avviò verso il lago per assaporare il tramonto in solitudine. Il sole rosso nel cielo violaceo stava incendiando le cime degli alberi. Giulio era un uomo molto attraente, la figura atletica, i lineamenti dolci e quasi infantili e due magnetici occhi grigio-azzurri giocavano ancora a suo favore. Il tempo lo aveva appena sfiorato. Arrivato, si sedette sul bordo di un tavolino di pietra mezzo consumato dal tempo. Guardò il paesaggio che si rifletteva nel lago. Solo qua e là guizzi di pesce a caccia di moscerini animavano lo specchio immobile. Il salice vicino mosse i lunghi rami. Non c'era alito di vento. L'uomo accese una maledetta sigaretta. Si volse a guardare la facciata severa dell'albergo, ingentilita da affreschi e le montagne lievemente innevate. Che ci faceva in quel posto? Un senso di malessere lo invase. Perché avesse acconsentito con entusiasmo alla decisione della figlia nella scelta di quell'albergo, se lo stava ancora chiedendo. Capiva le esigenze della ragazza. Il luogo era stato la loro dimora per un lungo periodo. Lo scopo era stato di tenere una bimba lontana dall'assenza non voluta della madre. Ovviamente la bambina subì il fascino di un nuovo modo di vivere e quel che fece ora piegare l'ago della bilancia conobbe il ragazzino che poche ore prima aveva sposato. L'albergo allora fu anche protagonista di un altro incontro. Giulio conobbe una donna che gli fece dimenticare in breve tempo la moglie. La loro fu un'unione della carne e dello spirito e come le cose più belle ebbe una fine. Il ritorno a una vita normale e una lunga permanenza all'estero contribuirono a spezzare una bella intesa. Ebbe altre donne, ma ritornare in quell'albergo aveva riaperto una ferita. Cercò di sorridere. Ovviamente la figlia, egoista come la maggior parte dei ragazzi, non aveva mai avuto nessuna voglia di avere altre donne per casa e aveva avuto banco nelle scelte del padre. Rabbrividì, pensando al futuro, e piano piano tornò sui suoi passi. Il tramonto aveva lasciato spazio in quell'ora che tutto si fa grigio e i ricordi tornarono amari. Attraversò il ristorante senza fermarsi, aveva mangiato poco durante il pranzo nuziale. Pensava solo il bisogno di bere. Non voleva pensare al ritorno a casa sua, la sua bellissima dimora immersa in un grande giardino al centro della città, ma da ora ricca di ricordi lasciati dalla figlia così disordinata e solare. La ragazza aveva in buona parte riempito la sua vita. Avrebbe trovato ad aspettarlo il gatto di casa e la vecchia Bettina, ormai sorda come una campana. Il segretario, ancora in servizio, vedendolo attraversare la hall, lo chiamò, gli consegnò una busta e gli porse la chiave. Raggiunto il bar, Giulio si sedette su una di quelle poltrone basse e accoglienti. Si fece portare del whisky irlandese e del ghiaccio. Lui lo preferiva liscio, ma non a stomaco vuoto. Voleva ricordare momenti che aveva chiuso a doppia mandata e negato a ogni evidenza. Al primo sorso riconobbe la sua marca preferita. Ricordò un viaggio a Cork e la sua iniziazione al non turbato sul posto. Si accomodò meglio, aprì la busta e subito l'annusò. Un profumo intenso di muschio e viole lo avvolse e lo fece precipitare nel passato. Gli spiegò con ansia il foglio e corse alla firma. Ma lo aveva intuito. Era tornata Villa. Ci fermiamo un attimo, Elisa, per la seconda canzone e poi riprendiamo. Va bene. Tu ci aspetti, vero? Certo. Allora, la seconda canzone in programma è cantata dai Nomadi. Mai come lei nessuna. Elisa? Ciao Elisa. Sei ancora qui? Sì. Proseguiamo? Certo. La stai leggendo veramente, veramente bene. Non lo so perché ho fatto qualche... Vabbè, allora, andiamo avanti. Allora, lui ha trovato la busta con la firma di William. Sì. Viglia, no Viglia. Allora, si precipitò alla reception. Il portiere che aveva costituito il segretario non seppe dargli una spiegazione precisa. Ricordava una bella donna con un velo dorato sulle spalle e sicuramente era nel gruppo degli invitati degli sposi. Inoltre, dopo avergli consegnato la busta, aveva chiesto il numero della sua stanza. «Il numero della mia stanza?» chiese ansioso l'uomo. «Sì, signore». Giulio, incredulo, si precipitò nella camera che aveva ospitato la figlia. Arrivò ansante. La vetrata che dava sul balcone fiorito era aperta e le tende vaporose ondeggiavano. Si intravedeva il blu della notte. C'era solo il vestito da sposa buttato sul letto, un'esplosione vaporosa di veli di tulle. Lo prese con le mani tremanti e lo depose sulla poltroncina. Una giarrettiera rossa appesa alla maniglia gli fece ricordare che era un portafortuna regalato alla figlia. Il cuore gli batteva all'impazzata. Guardò ovunque, ma della donna nemmeno l'ombra. Stanco, decise di andare a letto. Si spogliò, fece una lunga doccia, si coricò lasciando aperta l'ampia finestra, cercando quel profumo, e si assopì. Aprì gli occhi a un rumore improvviso e vide William che lo guardava sorridendo. Cercò l'interruttore, ma lei lo fermò. «Non ti basta la luce della luna?» «Sei proprio tu?» «Certo, non sono un fantasma. Guarda, ho ancora il tuo anello. E hai fatto morire. Senti il mio cuore.» L'uomo le prese la mano e se la pose sul petto. Come non ricordare la piccola mano e l'anello troppo grande e il suo profumo così intenso? La donna sciolse veli e bottoni. Il vestito le scivolò al suolo. Giulio intravide sullo specchio la sua silhouette. Sembrava una ninfa. Incredulo, spostò le lenzuola e scese, sentendosi girare la testa, aprì le braccia. Lei... E si rifugiò baciandolo e lui ritrovò la sua bocca e come un assetato avrebbe voluto berla, assaporandola come un vecchio vino d'annata. Una voglia intensa lo avvolse e lei come allora gli si offrì tutta. Il mondo fu solo loro. Un raggio di sole svegliò Giulio che felice allungò la mano. Si alzò di scatto. Il lenzuolo era freddo. E Viglia? Di lei nemmeno l'ombra. L'uomo ispezionò la stanza. Non trovò nessuna traccia della sua presenza. Poi sfilò il lenzuolo e fra le pieghe stropicciate ritrovò l'anello. Lo annusò. L'intenso profumo di viole e di muschio invase la stanza. No, non poteva lasciarla andare. Dopo essersi infilato dei jeans e una maglietta, scese per chiedere al portiere di notte se l'avesse vista. «Si calmi, signore. Le posso assicurare che da qui non è passato nessuno. E forse la signora che cerca è una nostra cliente. E non lo so. Credo di sì. Era una mia vecchia conoscenza», rispose. «E potrei sapere il nome?» Giulio cercò di calmarsi. Un cameriere gli portò un caffè. Si sedette. «Sì, si chiama Viglian de Sordi». Il vecchio portiere pensoso fece una lunga pausa, aspettò che l'uomo si calmasse e sottovoce lo invitò a seguirlo. «Ora vedrà da sé». I due entrarono in una stanza del primo piano. Il buio li accolse e il portiere accese la lampadario. Egli si trovò all'improvviso di fronte al ritratto in grandezza naturale di Viglia, seduta sotto il salice. «È lei, vero?» chiese sottovoce il portiere. «Sì, è lei», rispose con voce rauca. Non si chiamava Viglia, ma era la signora Laura. La chiamavano scherzosamente come la ninfa perché sembrava appartenesse a quel mondo. «Da più di 30 anni riposa sotto il salice del lago, proprio quello del quadro», affermò il portiere. «Potrei rimanere solo?» chiese un emozionato Giulio. «Certo, ma la prego, quando esce, chiuda la porta e mi porti la chiave», rispose il portiere avvicinandosi alla porta. L'uomo ancora sconvolto si avvicinò alla tela, fissò il bel viso e a lui sembrò che gli sorridesse. No. Poi guardò le mani, le bellissime mani di Villian appoggiate al grembo, e solo ora comprese che era stata veramente lei. Il dito che aveva portato l'anello aveva una fascia sbiadita. Giulio aveva ancora l'anello chiuso nel pugno. Lo aprì e il profumo di viole e di muschio invase la stanza. Ecco, il racconto è finito. Adesso il tuo commento... Il mio commento... Io quando ero giovane, ovviamente, e anche voi, anche Antonio, si ricorderà quei film, Rebecca la prima moglie, tutti quei film inglesi, quell'atmosfera. Così particolarmente. Io ho cercato di ricreare quello. Sì. Un mix così. Di fantasia, di inquietudine, eccetera. In sostanza lui sogna di rivedere... Ma forse anche la vede, per quello che ne sappiamo noi. Lascia indeterminata la soluzione. Sì, sono come quei libri inglesi particolari, un po' fantasy, diciamo, di un tempo che adesso non li scrivono più. Ma io ho voluto rivedere questo genere, ecco, perché poi adesso è tornato di moda il fantasy, specialmente per i giovani. Noi giovani hanno la passione del fantasy, del mondo che non si sa dove finisce né dove comincia, il mondo dell'oltre. Una reazione a una realtà che non piace proprio. È una realtà che non piace, è meglio sognare. Certo. Sì, piaciuto Antonio? Sì, molto, molto. L'inquietudine proprio che serpeggia, eccetera, e l'amore naturalmente che sovrasta ogni altro sentimento. Certo. Nonostante fossero passati più di 30 anni. Ma magari lui avrà avuto anche 100 donne, sì, non importa. Sì. Però quella era quella che aveva segnato la sua esistenza. Allora Elisa, visto che sei con noi, posso dire che hai scritto un romanzo che sarà pubblicato? Sì. Non so quando sarà pubblicato. Adesso fa parte di... sono stata selezionata a un premio. Ah. E io spero bene. Non metto... È un premio tipo il Campiello, per capirci. Però. Cioè, no, non dell'importanza del Campiello. Per l'inedito, cioè c'è una selezione e ci sono i grandi lettori e i grandi lettori danno i giudizi e io sono finalista. E questo fa non piacere. Non so se posso essere prima come terza, ecco. L'importante è esserci, no? L'importante è veramente esserci, perché tante volte magari un terzo poi è più letto del primo, per modo di dire, si fa per dire. Sì. E c'è anche la probabilità, anche perché al giorno d'oggi è difficile farsi una pubblicazione. È ovvio che se non sei famoso devi pagare. C'è niente da fare. Oggi ormai si paga tutto, quindi bisogna pagare. E io sto cercando di non pagare, ecco, più che altro per una mia soddisfazione. Giustamente. Ascolta, ho visto Elisa. Anche che Maria è piaciuto molto. Sì, Maria aveva... sì, voleva l'abbiamo mai presentato in radio, ma bisognerà che lo faremo È stato anche futuro. Scelto, c'è un gruppo a Treviso mi sembra abbia il nome Luna o roba del genere, mi hanno telefonato perché l'hanno scelto per discuterlo. Se la luna, sì. E se la luna, sì. È piacevole, insomma. Beh, certo, sono sempre soddisfazioni. Sono sempre piccole soddisfazioni. Sì, sì. Sì, io mi ricordo che ne avevo parlato con Antonio, che volevamo leggerlo tutto, magari a puntate. Non si sa mai, ma non poniamo mai limiti alla provvidenza, è vero? Ma certo. Sì, magari un capitolo al. Quello ha dei punti storici molto importanti, perché è difficile, di solito trovi la grande storia nei libri, ma la piccola storia di una città o dei paesi non la trovi? Sì, che è quella che è più importante. Beh, è quella che dopo fa la grande storia. Esattamente, sì. Sono le basi. E diciamo che ricordarlo e certi punti, per esempio parlare di Fiasso d'Artico, del 1907, dei problemi degli operai che passavano da 18 ore al giorno di lavoro. E poi la guerra. E la guerra. La prima guerra mondiale. E Treviso poi. E Treviso. E io sono stata aiutata moltissimo da dei libri che aveva fatto un collega di mio marito. Ti ricordi, Gesuina, i libri di Altarui, del dottor Altarui, sì, sì, sì. E da Altarui io ho tratto molti dati, perché io non sapevo a che ora è avvenuto il bombardamento. Sì, sì. E certe cose invece bisogna cercarle, perché quando si parla di storia bisogna andare un po' sul certo. Ma il dottor Altarui era molto profondo in questa cosa, in questa storia, lui proprio aveva approfondito veramente, particolari poi. Sì, sì, sì. Comunque, per chi non si ricordasse, Elisa è stata ancora nostra ospite, se non altro telefonicamente. Ecco, anche di presenza con le fiabe. Abbiamo letto anche, non qualche mese fa, no? Margaretta, l'altro racconto. Quindi sei abbastanza nota. Adesso il tuo prossimo romanzo, quello che pubblicherai, è intitolato? Il titolo è Camilla e la luna piena. Camilla e la luna piena, sì. Ecco, sì, sì. Anche quello l'abbiamo, beh, l'hai scritto tu, ma... sono partita con quello, con un racconto. Sì. E questo racconto era piaciuto, ma aveva una fine un po' triste. E allora tutti mi hanno detto, ma che peccato, qui e lì. E da lì è nato il romanzo. Che l'ho seguito capitolo per capitolo, tu, ti ricordi? Giorno finito il capitolo. E che ti ho detto che il finale era favoloso. E prima di correggerlo, diciamo, appena finito, ancora con la penna calda, telefonavo a te, alla Gesuina Maccari, e glielo leggevo. Io esprimevo il mio modestissimo giudizio, però sai che io sono una tua fan. Dai primi del 2000, quando ti ho conosciuta. È vero. Ecco, adesso stai scrivendo qualcos'altro, mi pare che tu scriva dei racconti, dell'horror. Sto scrivendo ho scritto racconti horror e fantasy, ma è perché della realtà è pesante viverla oggi, questa realtà, sinceramente. Allora, anche con la fantasia, anche quando scrivi, vai fuori e non pensi al tuo mondo, al mondo che sta precipitando, perché non sappiamo dove andiamo a finire. E a me fa paura. Fa paura per i figli, per i nipoti. Lo so. Noi ormai, basta, abbiamo vissuto quello che abbiamo avuto, basta. Ma per i giovani. Per i giovani più che altro. Io ho paura per i giovani. Sì. Per i giovani. E anche per noi, insomma, perché almeno che si possa vivere una vecchiaia serena. Non si chiede altro che un minimo di serenità, ecco non si chiede altro. Allora, quando pensi che verrà pubblicato questo tuo... Questo non lo so, perché la cerimonia è il 2 giugno. E io vado. Sono costretta questa volta. Allora lì a quel concorso hai presentato questo libro? Camilla e la luna piena. Ah, quello hai presentato? L'inedito. Ho fatto il concorso perché se vinco me lo pubblicano. Ho capito, benissimo. Beh, dopo così ci terrai informata. Certo. Almeno lo spero. Così noi dopo... l'ho mandato a 2 o 3 concorsi, a dire il vero. Ce n'è anche un altro in ballo, molto grosso. Ma se questo arriva per primo, ben venga. Esatto. Non aspetto l'altro. Noi aspettiamo... notizie, quello che avverrà. Anche perché generalmente sono sempre notizie buone, ma speriamo. Di solito sì, no, è una grossa soddisfazione. Beh, certo, direi proprio decisamente di sì. Bene, Elisa, noi ti ringraziamo e ti diamo appuntamento per la prossima volta. Alla prossima. Grazie. Volta. Grazie. Ciao, Elisa. Ciao, Elisa. Ciao, ciao, ciao. Ringraziamo Elisa che ci ha così anticipato di questo suo nuovo romanzo Camilla la luna piena, e noi andiamo avanti col programma e ad ascoltiamo la terza canzone cantata da Rita Pavone. Mattonella, non essere geloso, se con gli altri ballo twist. Non essere furioso, se con gli altri ballo rock. Conti, conti, conti, chi sei la mia passione? Io ballo, il ballo del mattone. Amore. Ed eccoci di nuovo in studio con... alcuni racconti, alcuni brani da tradizione. Sì, perché adesso siamo in primavera. Esatto, che parlano di primavera, o comunque che hanno qualche riferimento in genere alla primavera. Qui si parla della vigilia, del Venerdì Santo e cose di questo tipo, e quindi diciamo che orientativamente siamo sempre in primavera. Queste cose le trai da? Dal A piede scalzi e il sapere dei nonni di Bruno Lorenzon, mio compaesano prematuramente scomparso. Che ne abbiamo parlato ancora. Esatto, un cantore, questa è di Piazza Editore, come sempre. Sì. È un cantore della civiltà contadina. Qui si parla di Magnarde Magro. In sostituzione della carne, ma anche in ossequio ai precetti della Chiesa che imponeva di mangiare di magro il venerdì, cioè de far vigilia, tornavano molto utili certe qualità di pesce minuto che sembra scomparso dalle nostre acque, probabilmente a causa del crescente inquinamento, come i noni e brussoe e spinarioe, i marsioni o gobi, cibo gradito soprattutto perché economico, adatto ad essere affogato nella polenta calda dopo essere stato fritto nell'olio o più frequentemente nello strutto. L'apprezzamento per questo umile desinare non era sminuito dalla consapevolezza che pesetto e oseto fa l'uomo poareto. D'altra parte, cose finì i gambari, sebone anche esate. I numerosi corsi d'acqua che irrigano la pianura, in memoria a quel tempo dello sversamento di inquinanti chimici e industriali, erano popolati anche da pesci più grossi che i rivieraschi pescavano con reti, nasse, bertavelli, Cogui. Con riferimento ai casi umani, finire in tel Bartoel aveva il significato di farsi abbindolare, cascare in un tranello. In periodo di magra era possibile catturare carpe e lucci a manina nei fossatelli e drio e scoine. Cosa vuol dire a manina? A manina, prendere con la mano, diciamo. Ah, ho capito. Sì, questo è quanto orientativamente sono. Per quanto ci appare il lusso, significava anche finire involontariamente dentro l'acqua nel tentativo di saltare da una riva all'altra. Esibizioni da ragazzi che parevano capaci quasi di saltare i fossi per longo. Pescavano anche scardo e tinche, siegoi, cioè i cefali, e bisati, anguille, animali che vivono tanto in mare che in acque dolci, risalendole per lunghi tratti. La vitalità dell'anguilla e l'abilità nello sgusciare di mano, sono proverbiali le schivanee de bisato, faceva dire di un ragazzo particolarmente irrequieto che esce come un bisato, ma si usava un'espressione di ben minore finezza per definire l'improvviso mutamento dell'indole di un adolescente. Qualche volta facevano la spesa dall'omo del pesce che offriva la sua mercanzia su un carrettino passando di casa in casa. Acquistavano per lo più pesci di mare, sardee, anguee, boseghe, passarini e folpi, nonché peocci e pevarassi da mangiare a scotadeo o da farne sugo per risotto. Non sempre il pescato era di giornata e bisognava consumarlo subito perché altrimenti el savea de freschin, parola intraducibile, esclusivamente veneta, che designa l'odore di fradicio, tipico anche dell'uovo andato a male. Il disgusto che ne derivava serviva a bollare colui che crede di saper tutto e invece sa da freschin. Il baccalà compariva raramente in tavola a motivo del costo elevato, ma era graditissimo comunque venisse preparato, in teccia, cioè in umido, mantecato o alla vicentina. Prima di cucinarlo occorreva ammorbidirne le carni e tenerlo poi in ammollo per un'intera giornata. L'operazione consisteva nel battere il pesce secco sulla dura pietra, immagine di cui ci si serviva nei confronti di uno che non capisse niente, il quale è il gana a testa che se potrebbe battere il bacalà. Quanto a gustarlo, bisognava tenere a mente che il bacalà non è bon se non è con sa. L'aspetto rinsecchito del merluzzo stagionato, il bacalà per l'appunto, era assimilato all'aspetto di un individuo dal fisico particolarmente asciutto, è secco come un bacalà, ma qualificava anche l'inerzia di chi avrebbe dovuto invece reagire in una circostanza che richiedesse un'immediata reazione. Essere sta come un bacalà, rigido e impietrito. Bacalà secco. Esatto. Qual è la differenza fra il baccalà e lo stoccafisso? Sempre di merluzzo si tratta. Cambia tuttavia il metodo di conservazione. Propriamente il baccalà è il pesce seccato e salato intero, mentre nell'altro caso il merluzzo viene diviso per lungo in due metà che induriscono all'aria, prendendo l'aspetto di assicelle. Gli olandesi lo chiamano stockfish, pesce bastone. Esattamente. Qui lo chiamavano. Comunque sia, dalle nostre parti si conosce soltanto il merluzzo secco e non salato. Anche la caratteristica magrezza della ringa era presa a pretesto per definire una donna secca cartapecorita da questo pesce risultava molto più economico del precedente. La ringa, esatto, conosciuta anche come scopeton, uh-huh, è stata per lungo tempo il simbolo della parsimonia alimentare dei nostri vecchi. Si tratta di una specie ittica comunissima nei mari del nord che arriva da noi dopo aver subito un processo di affumicamento e salatura che ne garantisce la durata nel tempo. Non mancava mai in ogni famiglia contadina, ma non la disdegnavano nemmeno le classi umili delle borgate. Il suo pregio maggiore consisteva nel sapore piccantissimo, che obbligava a companadegarla, cioè a consumarne una porzione piccolissima insieme a tanta polenta. Intorno a questa pratica si sono sprecate le storielle e le invenzioni, come quella che vuole la renga appesa con lo spago a una trave della cucina, mentre i commensali insaporivano la fetta di polenta strusciandola sul pesce in continua oscillazione. A quel tempo non c'erano tanti soldi, quindi per assolutamente. Guarda assolutamente. Che freschin e scopeton anche da noi a Mantova. Sì. È una parola usata. Ho capito. Ecco. Sì, sì, quindi è praticamente un po' allargata rispetto Sì, appunto. Esattamente. Quindi non è ci sono... non è esclusivamente non è esclusivamente sai sì, cosa sì, Antonio sì. Sì. Ci parli un pochino della figura di Lorenzo? Bruno Lorenzo è stato un commerciante di caccia e pesca, praticamente, commerciante per lunga pezza, diciamo un lungo periodo, è stato un cacciatore anche, e soprattutto è stato un raccoglitore di detti e fatti di epoca contadina, praticamente lui che aveva sempre vissuto in piazza, praticamente in piazza Roncate, quindi non era mai stato come dire assimilabile a un contadino o cose di questo tipo. Però lui amava queste cose. Molto questa civiltà, e naturalmente aveva capito che si stava così spegnendo, si stava perdendo questo patrimonio di conoscenze eccetera, e con la sua arguzia e bonomia, che sono diventati proverbiali, perché il modo di scrivere con ironia e autoironia è stato sempre straordinario. Ha scritto anche poesie? Ha scritto, no, in genere ha scritto una commedia, Il Conte Amoeri, che è stata l'ultima. Ha scritto un romanzo, La Collana di Corallo, e soprattutto ha scritto la trilogia, praticamente, sulla civiltà contadina. È un personaggio che naturalmente andrà riscoperto, perché è veramente una cosa straordinaria. Noi lo riscopriremo. Ma la trilogia consiste, l'ultimo che è a Piede Scalzi, Drio Arestera, a Piede Scalzi, Drio Arestera, Il Parlare dei Nonni, a Piede Scalzi, Il Saper dei Nonni, e Che a Piasa, Che a Tasa, Che a Stare a Casa, naturalmente. Che è stato poi l'ultimo. Questo è l'ultimo della trilogia, che chiaramente ha avuto anche grande successo, naturalmente. Cosa dici? Ci fermiamo un momento? E ci fermiamo un momento, e così per ascoltare un'altra canzone. Un'altra canzone, allora, cantata da Nino Buonocore, Scrivimi. Scrivimi quando il vento avrà spogliato gli alberi, gli altri sono andati al cinema. Vuoi restare sola, poca voglia di parlare, allora scrivimi, servirà sentirti meno fragile, quando nella gente troverai solamente di sapere che mi pensi anche un minuto, perché io so accontentarmi anche di un semplice saluto. Ci vuole poco per sentirsi più vicini. Scrivimi quando il cielo sembrerà più limpido, le giornate ormai si allungano, ma tu non aspetta la sera. Se hai voglia di cantare, scrivimi. Anche quando penserai che ti sei innamorato, thank you. se più vicini. Allora, di nuovo in studio e per un altro racconto, un altro brano, diciamo un frammento di racconti dalle Stagioni perdute di Sante Rossetto, sempre di Piazza Editore. Sottotitolo Il tramonto della civiltà contadina in un paese del Veneto, e si parla di primavera. In primavera, quando le mamme e i bambini parevano più stanchi, gli davano l'olio di fegato di merluzzo, che solo a pensarci Angelo gli veniva da vomitare. Comperavano in farmacia una bossettina di quell'intruglio denso e stomachevole. Il mattino, appena alzati, dovevano berlo. Angelo scendeva in cucina di malavoglia con il muso chino, pensando all'orribile sacrificio che doveva fare. Appena vedeva che la mamma si avvicinava alla bottiglietta con il cucchiaio, cominciava a sgnafare con voce poco convinta, perché sapeva che gli toccava obbedire stringendo i denti. La mamma riempiva un cucchiaio di olio e si avvicinava. Angelo chiudeva la bocca in un ultimo inutile tentativo di rifiutare l'amara cucchiaiata. «Apri le labbra», gli intimava la mamma, «poi diventi forte e cresci bene». Il ragazzo pensava che sarebbe cresciuto bene lo stesso, anche senza ingollare quella porcheria. «Dai, una bella sgosata», continuava la mamma, che intanto gli aveva preso le narici tra due dita, stringendole perché non odorasse quel lezzo nauseabondo. Una volta usava far così. Sì. E poi proseguiva, mentre gli ficcava con decisione il cucchiaio in bocca, «fai un sacrificio. Pensa a tutti quelli che ha fatto Gesù sulla croce. Ecco, vedi, non è stato così terribile», concludeva pulendogli il mento gocciolante. Ma Angelo faceva boccacce stralunate e quell'olio proprio non lo sopportava. Qualche volta a merenda però c'era un bell'uovo sbattuto. La mamma spezzava il guscio, raccoglieva in un piatto la chiara per usarla dopo e metteva il tuorlo d'un bel rosso fuoco in una scodella. Lo copriva di zucchero e cominciava a mescolare l'impasto che dopo pochi minuti diventava giallo oro. Gustoso e dolcissimo. Angelo lo assaporava impiastricciandosi le labbra, che poi puliva passandosi sopra la lingua. Leccava la scodella con cura per non perdere nessuna briciola di quelle leccornie da poveri. Quando c'era qualche soldo in più, comperavano all'osteria una mezza bossa di vermut rosso e ne aggiungevano un bicchierino nell'uovo sbattuto. «Fa tanto ben paritosa tei chi gada cressa», dicevano tra di loro le mamme fuori dalla messa. Qualche ragazzo di quelli che le famiglie erano meno povere aveva anche il frullatore per fare la chiara montata. Angelo guardava con suddivisione quell'oggetto che, manovrato da una piccola ruota, faceva girare delle minuscole aste ricurve di ferro. Il movimento circolatorio trasformava l'albume in un informe impasto lattiginoso, in una nube bianca che riempiva il piatto. Ci mettevano sopra, per addolcirla, un velo di zucchero e poi la ingollavano con il cucchiaio. In pochi attimi era sparita dalle bocche avide dei bambini che, appena finito, guardavano con rimpianto il piatto vuoto. Beh, a me l'uovo sbattuto, per esempio, non è mai piaciuto. Beh, devo dirti che sì, siamo dei ricordi così, dei ricordi abbastanza. Potremmo leggere, diciamo, un altro brano, un altro frammento. Scusa, come si intitola quel romanzo? Questo romanzo si chiama Le stagioni perdute. Ah. Diciamo che è un po' un resoconto di una civiltà che è sparita senza che ce ne accorgessimo praticamente in poco tempo. Il tramonto della civiltà contadina è stato subito anziché gestito come da altre nazioni più lungimiranti. Questa è stata una delle cause dei nostri mali che si sono susseguiti, cioè la mancanza di tutela del paesaggio, così la sfrontatezza della devastazione, diciamo, che è avvenuta poi e compagnia, io credo siano riconducibili in larga parte a questa smemoratezza, diciamo, a questa fretta di mettere fine a un'epoca che si pensava di miseria, ma che quest'epoca avrebbe rivalutato quelle che sono succedute, certo. Probabilmente. Ma Sante Rossetto è trevigiano? È trevigiano, di un giornalista, scrittore, cioè ex giornalista o giornalista tuttora, scrittore, caporedattore, eccetera. Ha scritto anche poesie? Non lo so. Letto niente di Sante non Rossetto? Non so, Sante è una persona molto, ha saputo cogliere in modo straordinariamente efficace anche questa alternanza di termini, diciamo, dialettali e compagnia, arricchiscono molto, diciamo, certo. Il racconto. Okay. E allora, di maggio adesso, uno dei mesi più allegri era maggio. I grossi lavori dei campi non erano ancora cominciati e le scuole stavano per finire. Era anche il mese del fioretto, alla sera in chiesa a recitare il rosario. Per irrobustire la pietà dei fanciulli gli si raccomandava di fare un fioretto al giorno, un'opera buona. I bambini si guardavano negli occhi arcuando le labbra, gli predicavano sempre sacrifici. «Obbedite ai genitori anche quando non avete voglia», ammoniva il cappellano, «almeno una volta al giorno». Le sarese cominciavano ormai a colorire e gli amoi, belli verdi, ingrossavano ogni sorgere del sole. I ragazzi, che non sapevano trattenere la troppa voglia, si arrampicavano sulla moer e mangiavano qualche frutto garbo che impastava la bocca. Ma la bramosia era troppo forte e gli faceva superare anche quell'asprezza. La sera, all'imbrunire, cominciavano a svolazzare le balenottoe. Tracciavano nell'aria segmenti imprevedibili a caccia di moscerini. I ragazzi cercavano ogni tanto di colpirle con la fionda, ma non ci riuscivano mai. Quei pipistrelli facevano un po' ribrezzo ad Angelo, ma annunciavano l'arrivo dell'estate e li sopportava anche perché non davano fastidio. Tutti i ragazzi avevano la loro fionda, la tenevano in tasca accanto alle baete e quando vedevano un merlo su un albero, silenziosamente raccattavano un sasso, caricavano la fionda e prendevano la mira. Povera bestia! Quasi sempre il rumore del sasso tra i rami faceva fuggire il volatile scampato al pericolo. La forcella, dove erano legati due elastici ritagliati da una vecchia camera d'aria di bicicletta, era ricavata da un ramo che si divaricava. Dall'altro lato gli elastici erano agganciati a un piccolo contenitore di cuoio dove si metteva il proiettile da lanciare, che era sempre il primo sasso che capitava in mano. Una trentina di giorni dopo Pasqua si rinnovava il rito delle rogazioni, preghiere per i campi e chi ci viveva e faticava. «Angelo», gli raccomandava la mamma la sera prima, «vai a letto presto perché domani mattina ti devi svegliare buon'ora e andare alle rogazioni». Cominciavano quando il sole era ancora a letto e il cielo schiariva appena, ma l'aria era quella della primavera inoltrata, fresca e corroborante, soprattutto per i ragazzi. La domenica a messa il prete avvertiva «questa settimana faremo le rogazioni». Le donne preparavano gli altarini su un tavolino con un'immagine sacra e due candele posate su una tovaglia lavata di fresco. Quasi sempre il buon Sant'Antonio con il braccio benedicente e l'immancabile Porcel che grufolava in terra. Era l'animale che il popolo dei campi aveva avvicinato al santo e che ogni famiglia della parrocchia nutriva per alcuni giorni, passandosele a turno fino al momento del sacrificio prima di Natale. Ogni tanto i ragazzi, quando andavano troppo spesso da una casa all'altra, si sentivano sgridare «Te sì come il porcel di Sant'Antoni, sempre in giro!» E Angelo gli piaceva poco quel paragone con un animale tanto utile ma sempre sporco. E poi gli avevano inculcato che i porcei fare robe brutte, che lui non capiva proprio cos'erano. E se lo chiedeva, i grandi gli urlavano ancora più forte, che si vergognasse e che doveva tacere. La mattina della prima rogazione Angelo si svegliava che aveva ancora tanta voglia di dormire e tirava le bocche da sonno che quasi si riaddormentava sulla scodella del latte. Poi, con gli zoccoli crocchianti sui sassi, correva in chiesa. Anche il cappellano, buttato giù dal letto prima del solito, non era di buon umore. Ecco qua. Bello anche questo. Diciamo però che anche questo riporta una delle tradizioni religiose, diciamo, che si sono perse nei Ma il fioretto c'è ancora. Il fioretto c'è ancora, il rosario, diciamo, il mese di maggio c'è ancora, eccetera. Ma erano queste proprio, come dire, tradizioni, questa fede, se vogliamo, semplice, ma anche, come dire, corroborata da un robusto aiuto da parte del Piovan. E si andava volentieri. Però il maggio c'erano meno distrazioni. Una volta era diverso da adesso. Beh, certamente. Questo maggio di quest'anno, poi diciamo. Questo maggio di quest'anno speriamo che, diciamo, dicono che ormai è tutto maggio così. Sì, io ricordo delle serate di maggio, era meravigliose. Non tutti gli anni vengono modo, naturalmente. Io ricordo dei maggio molto belli. Ci accontentiamo e andiamo con l'ultima canzone, se Dio vuole. È intitolata Non sono Maddalena ed è cantata da Rosanna Fratello. Caro amore, ritorni questa sera. resistere non so. Caro amore, non sono Maddalena, stai tranquillo, io sono ancora in tempo. E chissà, vado incontro, gli dirò, io non gli dirò niente, tutto bene adesso che sei qui. Sì. Ed eccoci di nuovo in studio con un ultimo frammento, sempre dalle stagioni perdute. Il sabato la mamma andava a bottega, scambiava le uova con qualche etto di zucchero raccolto con un assesso e da un sacco e raggomitolato in una carta azzurro scuro, un po' di caffè macinato sul momento e avvolto in un cartoccio bianco, sale e un paio di misure di olio che il casoin versava da una fiasca nella bottiglia con un misurin. Sabato c'era un'aria di festa nelle case, domenica non si lavorava, era dedicata alla chiesa. Al Signore, diceva il prete, con tre messe e un vespero. Alla messa prima, che si celebrava all'alba, andavano quasi soltanto le donne e qualche uomo. Gli altri rimanevano a casa a varnar le vacche. I bambini, invece, potevano poltrire tra le coltri fino alle sette e anche di più. A quell'ora tornavano le donne dalla messa, accendevano il fuoco e preparavano la merenda. I bambini, saziati di polenta, indossavano il maglione della festa e correvano in chiesa sempre con le baiette in tasca. Era la messa del fanciullo. I ragazzini arrivavano un po' prima dell'inizio e giocavano a baete nel sagrato tra un rimbrotto e l'altro di qualche adulto. «Sempre drioso garsticei!» Grida e strepiti arrivavano fino in canonica e il sacrestano ogni tanto rampognava i ragazzi. Quando suonava il botto, raccoglievano le baete andando a occupare i banchi in chiesa. La navata era divisa in due grandi file, da una parte i maschi, dall'altra le femmine. Davanti, nelle panche, si siedevano i bambini. Nei banchi dietro i ragazzi e qualche giovanotto. Talvolta due aspiranti morosi si davano un silenzioso appuntamento a quella messa dove non sarebbero stati controllati dai genitori, che non dovevano accorgersi di niente, e tantomeno il prete, che poi lo avrebbe detto al padre dei due. Ma tu non sai che le fidanzate, quando ricevono l'anello di fidanzamento, andavano a messa e facendo finta di mettersi a posto i capelli, facevano vedere l'anello. Per vedere, erano quelli, quei piccoli qua, innocenti sotterfugi, sì, diciamo. Ma quante belle, certo che... C'era un pudore che adesso manca completamente, diciamo. Ecco, no, c'era si gioiva delle piccole cose. Delle piccole cose, esatto. E questa è la nostra... siamo incapaci oggi di gioire di queste cose. Purtroppo questa crisi lunga, eccetera, probabilmente ci farà rinsavire. Io, e questo comunque... è il nostro augurio, diciamo. Non lo so. Ma vogliamo sperarlo. In ogni caso le condizioni ci sono. Io insomma, sto aspettando invece il profumo del tiglio, del glicine, che finché piove sicuramente ormai, diciamo, io aspetto, proprio per me è un ritornare un alla vita sana. Proprio. Vabbè, allora, visto che il tempo a nostra disposizione è scaduto. Grazie, sì. Antonio, e io ringrazio saluto. Te, ringrazio soprattutto le ascoltatrici, gli ascoltatori che hanno come sempre la pazienza di seguirci, e alla prossima volta. Speriamo di far loro compagnia, dai. Certamente. Ecco, un saluto affettuoso come sempre da me e il mio solito ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.